serenate al chiar di luna, stornellate per la bionda e per la bruna. Non siete soltanto il ricordo di un tempo passato, ma siete il canto che ad ognuno fa bene sentir. Va, canzone all'italiana, porta lontano nel mondo a chi ti sa capir. La voce del mio paese e l'aria del mio mar va, canzone all'italiana, vola leggera sui monti, va nelle grandi città, porta fortuna alle genti, porta felicità, va. Canzone all'italiana, porta lontano nel mondo a chi ti sa capir. La musica del mio cielo è l'oro del mio sol. Va, canzone all'italiana. Del mio cielo è l'oro del mio sol, va, canzone all'italiana, canzone all'italiana, va.